finiranno i tempi bui, basta, guai, cerco di ridere, ma la tristezza non mi passa mai. Ho troppo da aspettare, non sono così sicuro e certo che qui ci sto bene, ma solamente perché tu non puoi vedere la mia faccia. Ma senti la mia voce, almeno fosse facile, non sarebbe una follia volare con gli amici miei. No, senti, consumo questa vita, tranquillo, manco ce ne fosse un'altra pronta per me. E mi rovino piano, disturbo l'esistenza di chi mi sta intorno, notte e giorno fermo qua. Con la mia musica che mi disintegra, con l'antipatia che mi caratterizza, mentre da solo mi battezzo in pazzo stella originale. Qui da nuoro col cuore, vieni a uccidermi, metti fine alla commedia della vita mia. Tanto so che non soffrirete di nostalgia. Squallido, vivere ogni giorno sperando che sia l'ultimo. Le notti sono lunghe quando ti defrente e ti vengono pensieri in testa, e uno sguardo va alla mia finestra. Che bello, poche stelle, tutto nero per davvero quasi. È una lacrima che scende giusta di innaffiare i vasi. Chissà che crescerà se pianti la disperazione, dopo viene una quattrone e tutto spazza via. Ma questa è la realtà, che se ti piace bene però non cambierà, non cambierà. Squallido, a vivere ogni giorno sperando che sia l'ultimo, e l'ultimo respiro che ti dedico. Pallido, come il sole che mi scalda al minimo, sarà l'ultimo sorriso che mi strapperà. Squallido qua, vivere ogni giorno sperando che sia l'ultimo, e l'ultimo respiro che ti dedico. Pallido, come il sole che mi scalda al minimo, sarà l'ultimo sorriso che mi strapperà. Le idee che mi si sciolgono tipo aspirina in polvere si diminuiscono dentro di me, che non girano e si incastrano. Le strofe che mi rappresentano mi condizionano, se non ti uccide ti fa crescere, esperienze insegnano, fortificano. Se chiudo gli occhi vedo solo storie che non crescono e mi stressano. Vedo gli sguardi che mi circondano, profumano di vecchio come le strade di Muro. Soliti giorni nel quartiere dove vivo, aspetto l'ultimo respiro, cresciuto strano perché la vita è squallida, speciale dedica. La gente che non scorda e che non mi dimentica. Mi scuserai se sono troppo pessimista, se vedo solo il buio quando guardo dalla mia finestra. In questo mare di tristezza resta mollo, l'unica via d'uscita un cappio intorno al collo. Forse ho voglia di morire, overdose di dolore, non mi sono aspettato niente, né lo voglio fare adesso. Ormai non serve più, ora che è tardi, non mi resta che iniettarmi in vene i miei ricordi. Sperando che sia l'ultimo, e l'ultimo respiro che ti dedico. Pallido, pallido come il sole che mi scalda al minimo, sarà l'ultimo sorriso che mi strapperà. E squallido, pallido, vivere ogni giorno sperando che sia l'ultimo, e l'ultimo respiro che ti dedico. Pallido, pallido come il sole che mi scalda al minimo, sarà l'ultimo sorriso che mi strapperà. E l'ultimo pensiero che ti dedico, poi ti scorderò, chiudo gli occhi per vederti meglio, li apro e ti dimentico. Ho spento la voglia di sembrare euforico, dall'Inghilterra insieme al mio dialetto ho riportato lo scenario classico. Il ghiaccio da qua giù, il freddo che mi cresce nella testa non mi passa più. Il freddo classico, astrago dentro al mio cranio, perso dentro il mare perché provo solo odio. Non mi trovo, nessuno mi cerca, nessuno mi pensa, sembra strano. Mi è rimasta solo l'angoscia di pinta e poi sto toccando comunque continuo perché voglio andarmi incontro. Vado veloce, verso la sorte, lì non aspetta, aspetta. So che squallido, facilitarmi il compito, dovrei star bene solamente perché un mare limpido. Ma il mio cervello è marcio di scintille pieno, e ci piove dentro, ma mai la coppa lei. L'ansia che mi sale, mi sta l'odio per la vita squallida, che son costretta a vivere, zitto non ridere, posso solo piangere, non criticarmi. Mi guardo intorno, l'ultimo respiro, posso goderlo adesso in questa vecchia città, e nella tasca solo aria. Condivido con la cricca tutto ciò che è insolito, a volte squali, solo a pensarci, sto male, vedo solo morti, io sono vivo, questo è tutto.